Ciò mi viene caldo qua tu. E non posso cavare due etichette perché ho la camicia sbregata sotto. Le storie, le frottole, ha sempre qualcosa di fondamento. E sempre raccorda qualcosa, principalmente quando si parla sulla nostra cultura italiana. E mi quando conto questa qua adesso, mi viene a mente quando c'era di stare la via Cappella Santa Maria Goretti, la via Brasilia. Finale conte che non era un casal che si ammaridai quando aveva 40 passani e gli ha fatto due fiui. Ma sti due fiui, se sei il papà e la mamma, tra quanta età che fea mia tanta sudizione, sti cosa te era demonietti veri. E i fava sul bacan. E allora ciò, sti due tosatei, fa questo e fa quello, e il papà e la mamma gli aveva messa ad andare. E gli ha detto così, ti avrei detto tosatei in queste casa, che sei da mangiare, che sei da bevere, che sei da giugare, tutto dentro di casa, e va a queste case e andai la messa. E assai sti due tosatei dentro, che hai fatto che? Con la voglia di venire fuori, gli ha guardato su una casetta umile, piccinina, puoretti, no? E che c'era mia il soffitto, che c'era il piso, e dopo che c'era le telie. E allora gli hai fatto che? Tosatei, li viani andai su, e gli avverto un buso dei teli, tira via 4-5 teli, gli andai fuori in mezzo ai ripe, e gli saltai fuori a parte sola da casa, e cari da Dio. Ben, l'hai ga tratto sassi dentro del posto, gli gamo là le galline del punaro, bon, i porchi gli molai tutti dentro del paiol, farina, urea, dubbica, fa su un baccan, le vacche molai in mezzo al miglio di uspenacià, i ciapelli se ston, metteva un spaghetto sotto, metteva miglio, tirea quando le galline da sotto le ciapeghe, piantea scartossi, te il culo che a fuoco le molea. Ma gli ha fatto sul tedeo quel giorno là. E invece la vecchia viene sti casa, quando gli ha visto tutto quel baccan là, un temporale che viene su un tempo nuvolo scuro, pareva il deluvio, no? Ciò il nonno e la nonna, rento di casa, quando gli aveva la porta, tu, si capisci che il buso là, il tempo che viene su e piove, e adesso con che? Chi che va su là, ciò? E tu stai qui come i massarioi, parte qua e parte là, ciò. Venga, pensa così, bisogna che saremo quel buso lì. Ciappa la tola, tira la barra in su, noi geriva. Ciappa la tola, metti in cima a carega, noi geriva. Ciappa la tola, metti in cima a carega, metti in cima lui, non geriva. Ciamma la vecchia puoretta, l'era entrata, che l'era più larga che alta. Ciamma allora la mesa, la carega, la vecchia e lui che l'era magretto, come mi così, in cima della vecchia. E scomincia a postare le teglie. Allora che c'era la mesa, la carega, la vecchia e lui in cima alla vecchia, Dio sto parlando, paia pareggio. E tu sa tela fuori che fia sul bacan, a sa starga che c'era un vicino che aveva appena battuto sto miglio. Venia su sto temporale, la muccia del miglio fuori, in prestio de alona, tu sa te, in presteme la lona, e lo riso a giugare, corri per qua, corri per là, e le galline di Ulbacan, tu sa te, in presteme la lona, e lo niente, mondè che le vostro pare malducai, salta fuori il pivecchio che ha detto, va su là in cucina che il pupà là in cima alla mamma di ostropare il buso che si muove in sti fuori.